Allora, 87.9, stiamo registrando una puntata che andrà questo giovedì, che è 1° febbraio, una puntata dell'assemblea di autodifesa dagli sfratti, dell'autoformazione che stiamo cercando di fare, stiamo facendo insomma tutti i giovedì. Io lascerei la parola a voi, intanto se ci volete introdurre meglio e ricordare ai radioascoltatori e le radioascoltatrici che cos'è l'assemblea di autodifesa dagli sfratti. Allora, l'assemblea di autodifesa antisfratti è un'assemblea che si ritrova a Centocelle Aperte, un centro sociale dove partecipano varie realtà, varie persone di diverse realtà, e noi ci solidarizziamo con le persone a cui si abbatte la politica immobiliare, il mercato immobiliare, e la pratica che attuiamo è il picchetto. Il picchetto è una pratica... Vai tranquillo. E che dico? Prova a riformare il periodo, chiudilo e... Riformare. E poi... come ci si rapporta? Come si, sì, come si rapporta? Io non ho mai registrato. E non puoi stoppare un attimo? Sì. Scusate, esatto, ok, piuttosto, perché sennò ci viene. Scusate, però io non so come andà avanti, che dire sul picchetto. Noi ci solidarizziamo con le persone a cui si abbatte la politica immobiliare e il mercato immobiliare. Usiamo il picchetto come strumento, cioè è uno strumento, uno dei pochi strumenti che riusciamo a sfruttare, e lo usiamo per tirare fuori del tempo per le persone, per trovare una situazione migliore. Sì. Io anche l'altra volta durante la trasmissione abbiamo parlato del valore del picchetto. Non so se vuoi provare un po' a ridirci qual è il significato per te del picchetto, dei picchetti. Allora, il valore del picchetto secondo me è molto importante, perché ci solidarizziamo con le persone, gli diamo supporto, vedono che ci stanno delle persone che capiscono la loro situazione, che stanno dietro di loro, e proviamo a tirare prima fuori del tempo per le persone che forse possono trovare anche un'altra sistemazione, che è di sicuro meglio e meno precaria dei centri di accoglienza, e anche come forma, è una forma per noi per... L'altra volta si è parlato anche tanto di picchetti, ad esempio, come momenti di socialità, solidarietà e conoscenza fra le persone. Una cosa che io direi a questo punto è, ok, questa è un po' la teoria, un po' del valore teorico che possono avere i picchetti. Detto ciò, se ci volete raccontare di qualche esperienza di picchetti, e mi riferisco ad esempio, se vogliamo un po' entrare nel merito dell'esperienza un po' della lotta per la casa che c'è stata nel quadrante di Don Bosco. In questo periodo anche insomma nelle televisioni se ne è parlato tanto. Televisioni, giornali tendono spesso a criminalizzare chi occupa. Io ripartirei un po' da lì, perché so che insomma come assemblea quel quadrante è un quadrante che avete conosciuto abbastanza bene, quindi se ci volete raccontare un po' quell'esperienza di lotta per la casa a Don Bosco. Sì, cioè il picchetto, la pratica del picchetto è sicuramente una pratica molto diffusa e comune un po' in tutta quanta Italia, e anche storicamente, in particolare nella città di Roma. È uno strumento che chi ha una maggiore attenzione rispetto alla questione della casa, i movimenti di lotta per l'abitare, i solidali, le solidale, spesso attuano, in quanto... In tante situazioni, nel momento in cui è difficile poi effettivamente trovare altre soluzioni, quindi mi sfrattano da una casa per una serie di ragioni, ne trovo un'altra, questa cosa per una serie di questioni anche molto specifiche e legate agli ultimi anni, e quindi ad esempio con la pandemia, con il blocco a un certo punto degli sfratti, la ripresa degli sfratti, l'aumento dei prezzi, tanto per l'acquisto, che in questo caso ci interessa di meno, lo approfondiremo dopo, però soprattutto per quanto riguarda gli affitti delle case, alla fine l'unica soluzione in mano alle persone risulta quello di appunto attuare la pratica del picchetto, che, come si diceva prima, sicuramente è un modo per prendere anche del tempo, perché poi c'è sempre una situazione materiale da risolvere, cioè quella di avere un tetto sopra la testa, soprattutto in situazioni dove magari ci sono delle difficoltà più specifiche riguardo appunto alla famiglia, legate ad esempio alla salute, al lavoro, oppure alla presenza di figli, figlie che magari vanno da un tot di tempo in una scuola, e cambiare il luogo in cui si vive, si risiede, vuol dire cambiare scuola, vuol dire cambiare comunità di riferimento, e questo comporta tutta una serie di conseguenze. Quindi la pratica del picchetto, al di là di come può essere intesa, diciamo, in termini un po' più teorici così, rimane comunque uno strumento fondamentale in mano a chi si pone il problema dell'abitare, dello sfratto. No, per noi, rispetto a quello che si diceva prima, è sicuramente un momento di... io parlo, poi... Io poi ho delle domande da farti. Ok. Per quanto, cioè, se è quanto mai vero che il picchetto è pure un momento, diciamo, di socialità, nel senso che ci si vede, si sta insieme, poi a seconda di dove si trova il picchetto, parlando ovviamente nella nostra esperienza, quindi a Roma, in parti diverse della città, a grandi distanze, tante volte a seconda di dove si trova il picchetto viene gente diversa, si affaccia gente diversa, conosciamo persone nuove. Nel corso del tempo abbiamo conosciuto anche persone che sono venute al picchetto perché l'hanno letto da qualche parte, dicendo: oh, io tra una settimana c'ho il terzo accesso, oppure mi hanno notificato lo sfratto. E quindi sicuramente questo è quanto mai vero. E però d'altro canto il picchetto per noi è stato tanto utile per entrare nello specifico delle situazioni che caratterizzano un fenomeno che, se in termini teorici e generali può essere approcciato, poi capire effettivamente come si declina nelle realtà in cui viviamo, nelle nostre città, è sempre più difficile. Il picchetto ci ha permesso questo, nel senso che magari tante volte ci siamo trovati a relazionarci con situazioni nelle quali la famiglia che doveva essere sfrattata si trovava in casa di privati, cioè non di enti pubblici, non in case di fondi pensionistici e via dicendo, ma dentro case di privati. E quello di cui ci siamo resi conto, ponendoci ad esempio una serie di domande in un primo momento, cioè su che voleva dire fare un picchetto rispetto allo sfratto di una persona che si trova in una casa di un privato, quindi magari togliendo all'altra persona, in questo caso il privato, cioè il proprietario, la possibilità di accedere, al di là del fatto che la proprietà privata fa schifo, siamo contro, viva il comunismo, questo poi lo tagliamo, giusto? Mi sono picciato. Però il proprietario, ci siamo resi conto che tante volte questi proprietari in realtà non sono proprietari di un appartamento magari dal quale dipende il proprio reddito familiare, quindi la sostenibilità, la possibilità di avere poi insomma un bene che ti permette di avere un reddito più alto, ma in realtà tante volte erano persone proprietari di parecchi immobili, studi al centro e via dicendo. E dico questo perché ci siamo resi conto che tante volte lo sfratto era legato alla necessità da parte di quel privato di vendere quel singolo immobile, quel singolo appartamento, in realtà insieme ad altri. E quello che abbiamo un po' lentamente iniziato a capire era soprattutto a chi venivano vendute queste case, cioè, o meglio, perché venivano vendute. Un esempio eclatante è stato questa famiglia che viveva in zona Alessandrino, in cui comunque è una zona dove ci sono tutte case abbastanza, cioè case basse, dove monofamiliari così, e quello di cui ci siamo resi conto, ma basta vedendo lo skyline un po' della zona, che negli ultimi 5 anni hanno iniziato a crescere palazzi, a costruire palazzine da 4-5 piani, evidentemente con diciamo costruire non di lusso, però sicuramente per eventuali acquirenti maggiormente benestanti rispetto a quelli che poi magari vivono in una parte dell'Alessandrino. Questo la roba che, di cui ci siamo resi conto, è quindi che chi ad esempio nel caso specifico di questa famiglia voleva sfrattare la famiglia perché non aveva, era indietro. Gina, perché Gina pagava l'affitto, non è che quello la sta di una cazzata, quello la voleva sfrattare perché voleva semplicemente costruire. No. Ad esempio, nel caso specifico di questa famiglia, ci siamo resi conto che il proprietario aveva solo un obiettivo quando ha chiesto lo sfratto per quella famiglia, cioè era quello di riacquisire il possesso dell'appartamento. In questo caso era una casettina singola, e solo al fine di poterla poi successivamente rivenderla a uno a chi avrebbe poi potuto costruire un'altra palazzina da 4 piani da poi vendere e via dicendo. Quindi questo ci ha aiutato, la pratica del picchetto antisfratto ci ha aiutato tanto a entrare nello specifico di situazione e capire, diciamo, un qualcosa che, se a livello più ampio e più teorico qualcuno di noi già sa meglio, poi per tutte le altre persone ci ha aiutato a capire effettivamente che cosa vuol dire quando si parla del fatto che il mercato immobiliare si trova in mano a dei privati, a quale tipo di privati, qual è il ruolo che svolge lo Stato sotto ovviamente forme delle sue istituzioni territoriali come comune o municipio, servizi sociali, che in tutto questo abbiamo capito che svolgono un ruolo diciamo praticamente inesistente, se non denunciando come noi in altri modi il fatto che la situazione è quella di 600 sfratti in un mese e via dicendo. E una roba un altro elemento, cioè un'altra questione che abbiamo avuto la possibilità di approfondire proprio attraverso gli sfratti è quello del ruolo di grandi attori sul mercato immobiliare, e quindi poi in ultima analisi su quella che per noi è la pratica dello sfratto. Per grandi attori si intendono agenzie immobiliari, grandi banche, grandi corporazioni, che anche nella nostra esperienza, ad esempio, prima infatti secondo me possiamo, cioè torniamo un attimo là, nel senso, cioè non tanto per la necessità di dover rispondere a chissà appunto quali sciacalli o insomma sedicenti giornalisti che vogliono fare notizia su problemi della gente, che della gente non sono, dovrebbero essere problemi collettivi se la gente non ha casa. E quindi, però un po' invece per spiegare alcune cose che avvengono nelle città e in alcuni quartieri. Quindi io qua volevo, insomma, se vi va, avevo un po' due questioni da porvi. Uno, un po' come si arriva all'occupazione, chi sono magari cioè non chi sono le persone, però un po' come si arriva a quel momento lì dell'occupazione. E per la vostra esperienza che avete avuto e le persone che avete incontrato. E l'altra domanda che vi volevo fare è anche invece chi c'è dall'altra parte della casa, nel senso la proprietà, e qui appunto si è parlato tanto di Enasarco, sì. E quindi un po' chi sono e come si muovono. Cioè, per quella che è stata un po' la nostra esperienza, se vogliamo vedere un po' chi c'è da una parte e dall'altra, questo, come si diceva prima, è un'assemblea che diciamo si è formata più o meno a partire dalla pandemia in poi. Quello che abbiamo visto è di cui abbiamo fatto proprio esperienza indirettamente noi e direttamente altre persone che comunque fanno parte dell'assemblea antisfratta, è che chi si è trovato a un certo punto a essere sfrattato, e cioè che aveva lo sfratto anche nel periodo del blocco degli sfratti, e che però poi nel periodo successivo, quando è stato sbloccato la questione degli sfratti, hanno visto subito l'applicazione dello sfratto attraverso ufficiale giudiziario, polizia e compagnia bella. Sono per lo più persone straniere che hanno perso il lavoro, che quindi hanno tutta in alcuni casi molti problemi relativi alla lingua, alla possibilità di accedere a tutta una serie di servizi, la possibilità anche di fare affidamento a una collettività, a una rete di conoscenze in un quartiere, e che sono tutti elementi che, soprattutto quando si parla di casa, famiglia, scuola, bambini, c'ha un grandissimo valore, che hanno perso il lavoro durante il Covid. Quindi in un periodo di pandemia tante di queste persone si sono ritrovate senza lavoro, poi quelli un po' più, diciamo così, giovani o che avevano lavori che gli potevano permettere di abbandonare e poi riprendere, diciamo così, e poi magari in un successivo momento hanno trovato lavoro. Tante persone invece, magari perché un po' più grandi, o perché facevano lavoro, lavoravano all'interno di cooperative e affini, una volta perso il posto poi hanno avuto difficoltà a riprenderlo. E in più molte famiglie che hanno subito gli sfratti erano famiglie in cui all'interno erano presenti delle disabilità più o meno gravi, e comunque anche lì il fattore di essere stranieri, e quindi la lingua, le conoscenze sul territorio e via dicendo, quello che dicevo un po' inizialmente, facevano sì che tante persone poi non riuscivano neanche a rendersi conto di una serie di quelle dovrebbero essere i diritti e doveri, diritti dei cittadini e doveri delle istituzioni nel supportare quelle situazioni specifiche, ammesso che questo funzioni, sia una cosa reale e non scritta tra costituzioni e norme varie. Comunque, in tante situazioni, diciamo che questo è stato. Chi occupa a casa oggi tendenzialmente sono abbastanza queste persone qua. Poi rispetto ad esempio una cosa della quale un po' ci siamo fatti un'idea è che comunque c'è un'attenzione rispetto al fatto che vengano occupati singoli appartamenti, nel senso che negli anni passati i movimenti di lotta per l'abitare hanno fatto delle grandi occupazioni. Questo fra l'altro è stato anche un tema dell'autoformazione che abbiamo fatto a 100 Celle Aperte. Hanno fatto delle grandi occupazioni in cui centinaia e centinaia di famiglie sono riuscite a trovare un tetto sopra la testa attraverso l'occupazione rivendicata pubblicamente e apertamente di palazzi, edifici che erano o pubblici, erano pubblici o che a un certo punto sono diventati privati. Ma ad esempio parlo di robe tipo palazzi dell'INPS, come quello di Province, se non sbaglio, e roba analoga, insomma. E in questo momento, negli ultimi anni, non ci sono stati questa come pratica di lotta non è stata più utilizzata per una serie di ragioni che, insomma, non ci riguardano proprio in questo momento, e quindi tante famiglie poi si sono ritrovate a occuparsi casa da sole, il che nella realtà poi dei fatti vuol dire che tante persone hanno pagato altre persone per farsi occupare casa, oppure hanno pagato i precedenti inquilini per poter poi accedere sempre in qualità di occupanti alla casa, oppure si sono organizzati semplicemente e sono andate a occupare casa. Questi, ad esempio, tutte queste modalità, che so poi quelle che effettivamente nella realtà abbiamo riscontrato, che ci piacciono alcune o meno, comunque poi questa è la realtà che caratterizza questa città. E ad esempio è quello che abbiamo riscontrato paro paro nel caso del quartiere di Don Bosco, dove ci sono una forte presenza di case che o attualmente o in passato appartenevano ai Nasarco. Questo ad esempio è stato un momento abbastanza fondamentale nell'esperienza di questa assemblea antisfratto, perché abbiamo visto appunto introdursi quei grandi attori ai quali facevo riferimento prima. E Nasarco è un grande fondo immobiliare, che poi entreremo più nello specifico, comunque che è passato dall'essere pubblico, semiprivato e privato, e a un certo punto ha iniziato a vendere pacchetti dei suoi appartamenti a banche tipo BNP Paribas in modalità abbastanza, cioè non so se per gli addetti alle ai lavori può essere più facile, ma insomma ricerche su tutto questo per noi sono state molto difficili, perché poi trovare informazioni specifiche e chiare e comprensibile, quello veramente difficile, però non è stato un qualcosa di facile. Però in soldoni, ammesso che poi entreremo un pochino nello specifico, quello che abbiamo capito è che a un certo punto Enasarco, per una serie di problemi relativi al proprio bilancio, ha deciso di vendere buona parte dei suoi immobili. Cioè a un certo punto hanno detto: adesso dobbiamo vendere un po' tutti quanti immobili. Questa roba è venuta in diverse modalità. Quella che sicuramente è andata per la minore è stato il fatto di venderle direttamente a chi si trovava già dentro quegli appartamenti, quindi diciamo, usandolo in modo improprio, però sanando la situazione di chi si trovava, di occupanti o meno all'interno di quegli appartamenti. Questa è stata la roba, diciamo, minore. Per lo più si è andato alla vendita diretta ad altri fondi, oppure alla vendita alle... Vabbè, interrompi, tanto poi possiamo tagliare. Cioè, su questo io lo sarei un po' più preciso. Allora taglio e poi entri su. Per esempio la maggior parte l'hanno venduta agli inquilini. Ok, taglia i precedenti 4 minuti. Cioè questa parte la conclusa. La concludo. Comunque poi dopo io parlo. Sì. Quindi... Insomma, il fatto di incontrare questo grande attore Enasarco ci ha permesso di introdurre un altro elemento all'interno dei ragionamenti, e quindi nel dar senso alla pratica del picchetto, che è quello della finanza più in generale. Poi entreremo un po' più nello specifico, però è stato... Io riprenderei da qui, perché ci avviciniamo al cuore del discorso comunque che voleva essere affrontato oggi in queste autoformazioni. E lo riprenderei partendo, facendo un passo indietro e uno sguardo sull'altra formazione che c'è stata, nel senso che noi l'ultima volta abbiamo visto fondamentalmente la casa e la questione della casa tutelata politicamente come uno strumento di profitto e di emarginazione. Abbiamo visto come storicamente i piani casa fossero appunto tutelati dalla politica, dalle leggi, da una questione legale e normativa, e però essere appunto la funzione di creare profitto, non di risolvere un problema collettivo. E dall'altra parte appunto anche come era anche uno strumento di emarginazione. Oggi invece vediamo come la questione della casa si lega alla finanza. Io partirei allora un po' da qui. Che cosa si intende per finanziarizzazione? Allora, forse più nella come questione abitativa. Come nasce? Come? Allora, io partirei da qui. Come nasce la finanziarizzazione nella questione abitativa? Allora, la finanziarizzazione nasce intorno all'inizio degli anni... Ok. La finanziarizzazione nasce all'inizio degli anni 90 e in questi anni c'è una forte crescita di dinamiche neoliberali che hanno portato gran parte degli istituti a passare da una gestione pubblica a una gestione privata. Questo implica principalmente una minore tutela del rischio sulla popolazione, e quindi allo stesso tempo gran parte degli istituti pubblici sono diventati società per azioni, e quindi nel mercato si inizia a crescere fortemente la competizione. Questa crescita della competizione implica un abbassamento del tasso di interesse, il che porta a un grande accesso al credito, cioè il credito diventa accessibile per gran parte della popolazione.